programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi simpatici ascoltatori. Questa è Radio F e voi state ascoltando Piazza Alta. Io sono Sara e io accanto a me Enzino. E io sono Marsi. Un che saluto... si sta scaldando, ora arriva. E questa voce che sentite da lontano? Ciao. Simone. Simone, il nostro super tecnico. Ciao simpatici amici. Pi, pi, pi, pi. Radio F dal 1976. Inizio soft per questa puntata di Piazza Alta. Sentite ancora in sottofondo il brano degli After Hours, Voglio una pelle splendida. Veramente un inizio insolito, direi. Ecco, sì, un inizio. Con il ritmo che teniamo di solito, questa qui è quasi una camomilla. Io vi guardo, ecco, e non allora, favella. Sì, questo ci guarda e non favella. Marzi invece ancora si deve svegliare. E no. A caldo, nel frattempo vi dico che Marzi a caldo, e questo così ha detto, promette bene per la serata, perché ci fa vedere così la sua magliettina color, come dire, ocra? Ostrica. Ostrica. Era un arancione, ma visto che il daltonismo è sbiadito, allora il daltonismo che imperversa in radio, va bene. Buonasera, sì, simpatici bene. Amici, torniamo a noi. Sì, allora questa è Radio F. E questa è l'undicesima puntata di Piazza Alta. Ebbene sì, nessuno ragazzi, siamo arrivati all'undicesima puntata questo 6 febbraio. Questo talk show, sì, work in progress. No, me le combinano di tutti i colori nel frattempo. Allora, innanzitutto come ci ascoltano i nostri simpatici amici? Per una volta dico io la frequenza 101.2 FM. E per una volta dico io la modalità streaming, che è www.radioiv.it. Questo, e per una volta dirò anch'io che potete tranquillamente attrezzare il vostro tranquillamente con calma di qui alla fine con l'app che trovate sul sito e che va bene sia per Apple che per Android. L'Apple non la trovo. Vabbè, dai, parliamo d'altro. Dici, Sara. Parliamo d'altro. Allora, io direi di entrare subito nel clima dell'argomento che tratteremo stasera. Perché va bene, argomentone e sì, c'è infatti tensione nell'aria. Senti già un po' c'è tensione. Allora, innanzitutto questa puntata l'abbiamo lanciata veramente un sacco di volte, quindi ci siamo veramente. Stasera parleremo aiutatemi però. Ma stasera dormite, ragazzi. Simpatici amici. Da stasera, ma non solo da stasera, dal 1976. E continueremo a farlo di qui a tutto il mese, al vero? 2076. Però stasera cominciamo a parlare del carnevale di Foiano. Prego. Bene, oddio. Ma non solo del carnevale di Foiano, sì, ma anche dei cantieri e quindi dei quattro carri allegorici che a partire da domenica sfileranno per le vie del paese. Insino mi guarda in un modo. Io aspetto che tu finisca di parlare. No, niente hai detto di male. Aspetto un che tu finisca invadente, per non sovrapporci e per accavallarci su queste cose. Siete anche in tinta stasera. Siete in tinta, siete tono su tono. Ve li farei vedere bellini tutti. Ora, sovrapporci sarai tu, se mi permetti, va bene? Allora, importantissimo, perché stasera proveremo un esperimento mai provato nella nostra trasmissione. La radiofonia mondiale. Ma che dico, sì. Mondiale. Tre telefonate, una dietro l'altra, ai presidenti. Senza sosta. Quattro cantieri. Però... tre telefonate, i cantieri sono quattro. Un presidente, dove Sara, l'abbiamo perso. La sorpresa finale. Ne parliamo alla fine. Insieme alle Opa. Quindi Opa. Lo scoprirete solo ascoltandoci, simpatici ascoltatori. Dimenticavo di dirvi anche la nostra importantissima pagina Facebook. È vero. Dove è possono vero. Cliccare mi piace e diventare uno fra i centinaia, e fra le centinaia e decinaia. E quindi amici. Però se parliamo di amici, se parliamo di pagina Facebook, dobbiamo subito salutare Eddie. Qualcuno. Eddie, ciao. Stasera ti abbiamo anticipato. No, ha già cliccato mi piace prima che iniziasse la trasmissione. Ci ha mandato un saluto per la 13ª puntata, Eddie. Fantastico. Looking for you, I twist my naked eyes. Rain from the sky, ground mirror shine. Cause I don't wanna blame me, my feeling down. Step around you, grab your hand and tumble. Moving forward faster than I'll ever be. Brave or will I surely lose? Arts, questo è il Arts, gruppo Arts, Arts. Arts. Provate a dirlo anche voi, su tutti casa, insieme. Tutti, di, tu, Arts. Di, Simone, di Arts. Ecco, bravo. Erano siete, sì, no, questo era il gruppo e la canzone era Mr. Hyde. Però ora una cosa la dobbiamo dire per dovere di cronaca. Salutiamo Dr. Jekyll. Va bene, dopo aver salutato il Dr. Jekyll. Allora, diciamo una cosa che insomma fa onore al nostro Simone. È vero, è vero. Perché è vero. Il bassista e cantante dei The Arts, che è Pietro Paletti, ha da poco fatto uscire il suo primo album da solista e i nostri ascoltatori di Piazzalta l'hanno scoperto prima di tutti gli altri ascoltatori delle altre radio, così, proprio perché Simone l'ha fatto passare ormai già da un bel po' di tempo, è passato già un mese, più quindi di un mese. Pensate, voglio dire, no, insomma, noi siamo avanti, anche questa non è una riprova, parole. Quindi diamo a Simone il merito. Insomma, che si è conquistato o via. E diamo a Cesare quel che è di Cesare. E a 23 coltellate. E a questo proposito, questa Sara, l'hai rubata. Io ti volevo ringraziare per sì. questa l'hai, domanda. Aspetta, l'hai rubata. L'hai rubata. Io ogni tanto ho delle interferenze che mi arrivano da destra. Sento una voce che veramente disturba. È il mio pacemaker. Mi disturba e tra l'altro crea delle strane onde elettromagnetiche. Allora ti spiego. Ho registrato le sedute col mio analista e me le rese. Già, le non abbiamo salutato il tuo analista. Ma io l'ho sempre con me. Questo pensavo. Tu dicessi l'ho sempre nel cuore perché ti sei toccato il cuore. No, perché lì c'è il portafoglio, è per quello che lo sente lì. Sì, ma e appunto, ma però insomma, allora torniamo a noi perché stasera davvero di cose da raccontare ne abbiamo tante. Il tempo stringe, devo fare la prima domanda perché sennò Marzi mi stressa e mi mette ansia. No, ma perché partiamo da molto lontano, ragazzi. Sì, partiamo da molto lontano perché per chi si fosse sintonizzato ora ricordiamo che stasera parleremo del Carnevale di Foiano, che è il carnevale più antico d'Italia. Esatto. La so, la so. Vai Marzi, vai su. Cara Sara, io fremo nel volerti dire queste cose. No, dille ai nostri ascoltatori però del non, carnevale non di Foiano. Ma pensa che andando indietro nel tempo, facendo ricerche storiche, ci siamo accorti che la voglia di divertirsi a Foiano la voglia c'è sempre stata. La voglia in generale è di vasariana memoria. Brava. Ma anche prima, ma anche prima di Vasari, ma chi ne parlava? Ma il Pietro, il Mostaccioli. Mostaccioli. Siamo entrati in un argomento. Ne che parlava il Mostaccioli, certamente. Ricorda il Mostaccioli, era compagno di Pietro Larrotini. Ma vabbè, non importa. Ora deve ripassare bene, ogni troppe nozioni in testa gli creano un po' di cortocircuito. Allora, vai avanti. Allora, ti dicevo, cara Sara, argomento Carnevale di Foiano. Il Carnevale di Foiano, come lo conosciamo oggi, ha diciamo un'età abbastanza limitata, è abbastanza recente, infatti risale più o meno agli anni 30. Sì. E della sua forma, diciamo, di festa pagana della nostra città. E la sua esistenza però era già conosciuta in tempi remoti e sembra pare si dice confermata da delle pubblicazioni dei comunicati addirittura risalenti al 1539. Sì, 1539 di un era un giovedì. Era il famoso giovedì grasso del 1539. Chiaro, perché tanto sai benissimo che a Foiano sì, tutto è successo e tutto si è scatenato di giovedì. Perfetto. E infatti c'è proprio un documento di questa risalente a quest'epoca che dice testualmente: il dì di carnovale con uno dì innanzi e uno di poi assegna ben 3 giorni a questa celebrazione, a questa festività pagana, diciamo così, tra virgolette. Quindi già 500 anni fa, cioè, a Foiano, pensa che voglia ci si divertisse, Madonna. Cioè 3 giorni di divertisse, ma proprio la voglia che c'è spellata. Che a voi chiaramente non c'è dato sapere quale fosse la forma precisa dei festeggiamenti e comunque ulteriori documenti relativi a questo argomento datati intorno al 1809 la data la so precisa che era altrettanto un giovedì sempre di giovedì certo. Rilevano che ancora a quest'epoca il carnevale foianese non veniva celebrato con particolari cerimonie ma che comunque il periodo era sentito come festivo visto che il potestà attenzione Vulpio sentite che pronuncia francese 1 e francese 2 emise un'ordinanza con la quale veniva permesso l'uso addirittura di maschere che era un periodo molto particolare. Ma come si svolgevano queste feste? Come Pezzino, fu? Come lo racconti? Fu? Se me lo fate, se mi fate di due parole. Via, facciamolo parlare. Le feste carnevalesche si svolgevano normalmente in posti chiusi, cioè nei locali chiusi, sotto forma di veglioni organizzati per lo più nella grande cucina delle case coloniche. Siamo ancora nella metà 800, cara Sara, all'incirca. Queste feste erano accompagnate dal dolce tipico di allora, ma che lo è anche di ora: i cenci. Pensate un buoni, po': i cenci, detti che anche buoni. Stracci. Quanti stracci. Anni avranno i cenci? I cenci. Cenci parlò male di straccio, tra l'altro. Straccio. Che poi cenci e stracci sono la stessa cosa, mi confermate? Chiaro. Sì, perlomeno qui nelle nostre zone sì. Poi da altre parti le chiamano in altri modi. Faremo una puntata anche sui cenci. Il pranzo è servito. Ma vai avanti. Nella ricostruzione ma storica. Sì. Nel paese queste feste però, questo diciamo che queste nelle cucine avvenivano nelle campagne. Nel paese queste feste però cedevano il posto ai veglioni. E pensate, cari amici che ci state ascoltando, come fu? Come non fu che i primi veglioni risalgono al 1826 ed erano all'interno del teatro di cui abbiamo già parlato nelle volte scorse, il Teatro Garibaldi. I nostri radioascoltatori possono andare sulla nostra pagina bravissimo, Facebook bravissimo, e recuperare la puntata. Ciao, vado via, bravo, vai. Più di così non perfetto, tranquillo, sigla. Tanto ha sparato tutte le cartucce che aveva. Niente, queste feste coinvolgevano sia giovani che meno giovani, tra musiche, danze, eccetera. Anche se l'apertura del teatro richiedeva un cospicuo emolumento. Sì, i costi erano molto alti e non sempre ce la facevano, tant'è che l'allora fondazione che pensava alla gestione del teatro richiedeva più volte al comune un aiuto finanziario. Quando ci sei tu più del giorno, ma spengo e dormo. Guarda un altro posto, un vero regno dentro il sogno. Direttamente dal terzo album dei Tiro Mancino, Simone ci ha proposto il brano Fanco. Il finale era direttamente dal terzo anello dello stadio. Da Kathmandu, io dice, è arrivato, non ho detto niente. Ricordiamo, infatti, cara Sara, sì, alcune delle rubriche importantissime sulla nostra pagina di Piazzalta. Sì, la rubrica che guarda il fine settimana. Brava, quella che guarda il fine settimana. Una domenica da Leone. E una domenica da Leone. Perfetto. Sono due rubriche che vi invitiamo a seguire. Però allora vogliamo fare un piccolo poco, perché sennò ti gasi la testa. Applauso a Enzino che si è rimesso proprio stasera per fare Grazie. La puntata per solo Piazzalto. Per voi, fortunatamente, cari radioascoltatori, non lo potete vedere in video perché vi rende le condizioni, sta sempre male, è veramente non è vero. Solo... adesso dai, sennò fa la questo vittima, gliene rendiamo basta merito. Su adesso abbiamo detto piccolo, sennò diventa una celebrazione. Amo il mio pubblico, ecco. È lui che ti standing ovation, ne vai. Andiamo avanti. Grazie, andiamo per questa andiamo avanti. Ah, no. Torniamo e non dai. Era una domanda arguta. Torniamo, questa. Sì, argutissima. Sì, lo so, scusa Sara, sto dando calci in continuazione, no. A Sara, ma sto dando calci, poteva giocarsela meglio, sì. Invece sto dando calci. Vabbè. Sto facendo piedino alla ha Sara un in modo, guarda, in modo virulento. Oggi il gerundio non usa quasi nessuno. Stai scherzando? È il congiuntivo, Marzi, che sta scomparendo, non il gerundio. Però è il congiuntivo, dai. Andiamo avanti. Allora, torniamo a parlare di carnevale, perché io sono curiosa. A questo punto però di sapere come negli anni il carnevale è cambiato, perché adesso voi insomma avete raccontato quella che è la storia del carnevale dall'inizio ad oggi. Che cos'è il carnevale di Foiano? Enzino batte Marzi, Da sempre d'altronde. Ma il carnevale di Foiano, Sara, io intanto vorrei congratularmi con te e con i tuoi per queste domande. Con i miei chi? Argute. I tuoi che hanno procreato una ragazza sì tanto sveglia. Allora, oggi il carnevale di Foiano è nuovo negli ultimi 80 anni, veramente. Siamo però nel 2014 giunti alla 475esima edizione. Pensa che sforzo organizzativo. Che fa di Foiano il carnevale più antico che esiste in Italia. Ma non in Italia, in mondo. Ma ti immagini gli striscioni 475 anni? Ci vuole anche spazio. Okay. Allora, è considerato, dicevo, tra le più importanti manifestazioni del genere, sia in Toscana che in Italia. E la caratteristica principale ovviamente sono i quattro grandi carri allegorici costruiti da sapienti mani. Con che materiale sono costruiti? Potrei stare qui per ora a parlarvene. No, ma noi una cosa, il materiale principale è la carta pesta, la carta dei giornali che viene riciclata quel sole 24 ore che non legge nessuno, oppure già consumato e letto con avidità, certo. Viste le importanti notizie che riporta, viene poi utilizzato per costruire il carro. Ma al di sotto della carta pesta, cari miei amici, c'è un cuore che batte. Abbiamo meccanica, abbiamo scultura, pittura, sapienza artigianale. La pittura magari è sopra, però... quella è sopra, ma anche sotto. A volte mettono della pittura sotto e poi la ricoprono. Cioè, guarda che c'è stato dei carri che sotto hanno avuto dei dipinti di Monet. Hercule Poirot. Pensate che le misure dei nostri carri sono 17 metri di lunghezza, e questa invidia penis, 8 metri di larghezza, signore, e 12 metri di altezza. Sì. Ma chi ce l'ha il carro più grosso? Sono le misure standard. Marzi, vai. Ma a dominare il popolo carnevalesco, cara Sara, è la figura di Reggio Condo. Reggio Condo. In questo piccolo borgo, simbolo del carnevale, è colui, la figura che tutti mette d'accordo praticamente. È il monarca assoluto di un regno che, pur durando pochi giorni, regala ai suoi sudditi cittadini attimi d'evasione e di speranza. E di speranza. Sentite con che tono lo dice. Mi sono fatto d'un tratto solenne perché... Certo, l'abbiamo sentito tutti. Il momento lo richiede. Re Giocondo apre le sfilate ogni domenica, seguito da dai carri maggiori, dalle mascherate e dalle bande. E durante l'ultima domenica di festa, dopo aver fatto pubblico testamento, viene dato alle fiamme nella spettacolare cerimonia della risicolonare. Vi ringrazio che siete così attenti alla mia dizione. Doveva riprendere fiato un attimo. Per la sua storicità secolare, cara Sara, che dopo le tue domande argute... Ti aspetteresti risposte tali, ma non ci arriviamo. Il Carnevale di Foiano è protagonista di alcune importanti pubblicazioni, raccolte fotografiche e rassegne culturali ed artistiche. Ma perché? Che motivi ci sono? I motivi di tanto interesse sono da ricercarsi nella peculiarità e genialità di una manifestazione così singolare. Carri giganteschi costruiti da mani sapienti, creazioni maestose. Loro arrivano dalla provincia Fano-Pesaro, sono i Soviet e di loro... Fano-Pesaro e Urbino, io la sapevo così. Va bene, mettiamo tutti... Pensavo fossero australiani, guarda. Ecstasy è il titolo del brano appena ascoltato. Comunque ecco, qualcosa c'era che rimandava a oltreoceano. Era forse il titolo, sì. Sì, o chissà come mai. Allora, però attenzione, perché... Allora, abbiamo introdotto il carnevale, abbiamo parlato della storia, però adesso ci concentriamo sui carri. Veniamo all'attualità, Sara. Veniamo all'attualità, i protagonisti del carnevale sono i carri allegorici. Per la rubrica Grandi Collegamenti... Abbiamo al telefono, chi abbiamo, Marzi? Introduciamo. Allora, abbiamo stasera tutti, intervisteremo tutti i presidenti dei quattro cantieri e il primo, in ordine chiaramente di tempo alfabetico, ma del cognome, intervento direi, è Pasquale Biagiotti. Pronto? Pasquale, ci sei? Pronto? Buonasera. Ciao Pasquale. Benvenuto in trasmissione. Tu sei il presidente del cantiere Nottamboli. I colori del cantiere sono giallo e neri e avete un pipistrello come simbolo. Sì. Bene, confermato tutto ciò. Ha studiato Marcello. Buonasera Pasquale. Buonasera. Sì, Pasquale, buonasera, la saluto anch'io. Allora, buonasera. Andiamo subito con la prima domanda. Domandone, io partirei proprio dal carro, appunto dai veri protagonisti del carnevale. Vogliamo dire il titolo e il tema del carro dei Nottamboli? Sì, il nostro titolo, il titolo del nostro carro è Dea Ferita. Dea sta per la natura che è ferita dalla violenza dell'uomo, dal mancato rispetto dell'uomo che verso la natura le fa di tutti i colori, insomma, dalle immondizie a rifiuti che riempiono i nostri mari, le nostre terre e così via. Quindi la Dea Ferita, perché la natura, che noi consideriamo a livello di un mito, di un dio, è ferita da questa cattiveria, diciamo così, dell'uomo. Tema ambizioso, mi verrebbe da dire. Quali sono, Pasquale, le aspettative dei Nottamboli per quest'anno di carnevale? Il tema è ambizioso, è un tema che in questo ultimo periodo passa un pochino in subordine rispetto a temi più attuali, come sono, che sono quelli della finanza, delle situazioni di crisi, eccetera. Però è un tema importante al quale noi abbiamo dedicato questa attenzione. E le aspettative? Le aspettative quando uno fa un carro sono sempre quelle di riuscire a primeggiare. Ovviamente abbiamo fatto quello che potevamo con le risorse purtroppo scarse che in questo periodo ci sono anche per il carnevale, quindi abbiamo le nostre buone aspettative, però insomma poi le giurie diranno quello che sarà il loro giudizio, al quale ovviamente noi ci rimettiamo. Pasquale, ma quest'anno che impressione hai? Ci sono gli altri carri, vi daranno filo da torcere? Come la senti la cosa? Senz'altro, il carnevale di Foiano è sempre molto competitivo e non si sa mai prima quello che può succedere, perché certamente noi, come anche gli altri cantieri, facciamo una cosa nella quale crediamo e ci investiamo le nostre migliori energie, e poi naturalmente ci rimettiamo al giudizio di persone che vengono da fuori e che talvolta conoscono bene il carnevale, altre volte non lo conoscono, e quindi c'è sempre una sorpresa rispetto al giudizio che viene fuori dalle giurie. Qualche volta sono preparati, vengono giurati molto preparati, altre volte un po' meno. I nostri poi sono carri allegorici, come giustamente è stato detto nella presentazione, cioè non sono carri carnevaleschi tout court, ma rappresentano sempre un'allegoria, quindi un insieme di figure che hanno un significato e quindi vanno un po' capite, vanno un po' interpretate, quindi è un carnevale un po' di un certo livello, insomma, ecco. Pasquale, dicevamo prima dell'uomo e il rapporto con la natura, eccetera, ma l'uomo nel rapporto col carro, nel cantiere dei Nottamboli, quanti siete? Dacci qualche numero, siete un gruppo numeroso? Sì, vabbè, il cantiere, ci sono grandi, ci sono gli anziani, i vecchi fondatori, ancora qualcuno, il cantiere ha più di 50 anni, qualcuno che ancora ha dei vecchi fondatori che ancora fa la carta pesta, e ci sono i ragazzini. E chi lavora effettivamente nel cantiere, diciamo, sono una trentina di persone, ma il nucleo vero, il nucleo forte è 10-15 persone che sono veramente degli esperti, dei grandi meccanici, dei grandi artisti che fanno la creta, che fanno quindi le sculture, che fanno la pittura. Sono un numero abbastanza grande per un paese come il nostro. Poi ci sono i simpatizzanti, e il nostro è un cantiere che ha molti simpatizzanti, anche se non è quello che conta il maggior numero di iscritti, perché il cantiere rispetto agli altri tre è più giovane. Ecco, allora Pasquale, io le chiedo, prima di salutarci, intanto magari di lanciare un saluto a tutte le persone che lavorano in cantiere, e poi, visto che ci ascoltano anche da altre città e spesso e volentieri anche da fuori Italia, vogliamo lanciare un invito a venire a questa edizione del Carnevale di Foiano? Non ho sentito molto bene perché sono in cantiere, ancora stiamo lavorando, quindi c'è anche un po' di confusione. Appunto, quindi... le dicevo Pasquale, lanciamo un invito alle persone che verranno a questa edizione del Carnevale, ci ascoltano anche fuori dalla provincia di Arezzo, quindi invitiamo tutte queste persone. Ah, benissimo, benissimo. Se vengono al Carnevale di Foiano vedranno sicuramente uno spettacolo che difficilmente avranno visto in passato e potranno vedere in futuro, perché i nostri carri così grandi, così imponenti, che passano attraverso le strade del nostro paese, attraverso le strettoie, e quindi si devono rimpicciolire, si dice, da noi si dice si devono chiudere e devono quindi restringersi e per poi allargarsi, aprirsi, arrivare ad altezze elevatissime, più alti dei tetti dei palazzi, sono uno spettacolo unico che vale la pena di veramente di vedere e di gustare. In più ogni carro è corredato di una mascherata, un gruppo di persone vestite in tema con il carro, che ballano, che fanno festa davanti al carro e che sono normalmente uno spettacolo nello spettacolo. Quindi chi viene può veramente gustarsi una bella serata, una bella manifestazione che difficilmente trova da altre parti. Grazie Pasquale, un salutone a tutti i nottambuli. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie, grazie Pasquale, grazie. Buona serata e buon lavoro. Grazie, grazie, buon lavoro anche a voi. Buonasera. Strolling in the night. And Tarantula, questa è una band californiana formatasi nell'underground rock di Los Angeles nei primi anni 90 e abbiamo ascoltato After Dark. E lì, e lì è rimasta, nell'underground. No, beh, è arrivata fino a noi, guarda, sulle nostre frequenze. La musica la potrei anche accettare, ma questi nomi vanno assolutamente cambiati. Bene, ma cara mi ci Sara. Metto tanto di impegno, guarda, a pronunciarli. No, ma io scherzo, ma la music oltre, questa è una musica oltre. Lo sai che chi denigra, chi critica poi compra, no? Ti è venuta male, Marzi, il professore diceva che ci sputa ci lecca, però ma si sa bene, che sei stato... Io mi fermerei qui, ragazzi, via, il tempo fermo, scorre, sì, poi abbiamo rischiare un bene altro ospite in linea, perché adesso abbiamo il presidente degli Azzurri, Ascanio Ferraro. Ascanio, ciao, ci senti? Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Ciao Ascanio, presidente vittorioso. Squille vocione squillante, ancora sì, bello allegro. Allora, diciamo qualche cosa, che Ascanio è presidente del carro degli Azzurri, del cantiere Azzurri, i cui colori sociali sono azzurro. Beh, la fantasia, se era verde era un miracolo. E come simbolo, Ascanio, avete una io l'ho interpretata così, una spada in mezzo a due ali, è corretto? Esatto, contornato dall'alloro. Contornato dall'alloro, e ok. Perfetto. Dicevo, allora, come descritto. Avete finito il carro, Ascanio? Sì, praticamente. Siete sì pronti? Bene. Siamo ai ritocchini finali. E allora, Ascanio, se siete ai ritocchini, vuoi intanto dirci titolo e tema del carro edizione 2014 del Carnevale? Allora, partiamo dal titolo, che è Cavalca i tuoi sogni, osa. Praticamente si tratta di un'allegoria che incita a realizzare ognuno i propri sogni, di usare un po' di più nella vita appunto per poter realizzare ognuno i propri desideri. Questa è l'allegoria in pochissime parole. Bene, invece il carro, diciamo, come descrivicelo, se puoi. Allora, no, il carro è praticamente rappresentato da Odino, re dei nordici, dio dei dei nordici appunto, che cavalca il suo possente cavallo Sleipnir, che combatte una medusa che è quella che non per gli ostacoli che uno ha. Bene, combatte bene i propri ostacoli praticamente. Quindi è uno slancio, Ascanio, quello che volete dare attraverso il carro, una spinta insomma ad affrontare la vita con energia, con spirito positivo? Esatto, il senso è proprio quello di dare uno slancio positivo a ognuno alla propria vita, realizzando appunto i piccoli sogni che ognuno di noi ha. Senti Ascanio, l'anno scorso siete stati vincitori dell'edizione 2013, quest'anno che aspettative avete? Siete convinti di quello che avete fatto? Quest'anno puntiamo decisamente al bis, perché per noi è un 30-40% più bello di quello di l'anno scorso. Ma puntiamo ai 25 punti, che è il massimo possibile. No, mi guardano perché vogliono che io parli, ma continua pure. No, il nostro Enzino è impegnato nella pubblicazione sulla diciamo pagina così Facebook. E diciamo così, diciamo che chiaramente la convinzione è la prima cosa, il primo ingrediente per fare bene le cose. Assolutamente, assolutamente. Senti Ascanio, qualcosa sulle persone che lavorano nel cantiere. Siete un cantiere numeroso? Siamo molti. Caratteristica del cantiere di Azzurri, che circa 10-15 persone non sono originari di Poiano, ovvero sono residenti dei comuni limitrofi, dalla fatta di Cortona, Monte San Savino, Sinalunga e dintorni. E sono stati affascinati da questa realizzazione dei carri. Come, scusa? Dico, pur non essendo foianesi d'origine, sono affascinati da questa attività. Assolutamente sì, perché è una cosa più unica che rara, e che gli altri paesi limitrofi non hanno niente di simile. E comunque il cantiere è un associazionismo, un modo di stare insieme di più generazioni e far crescere tutti in modo laborioso ma giocoso allo stesso momento. Ecco, senti Ascanio, per salutarci, visto che appunto voi avete attratto tante persone che vengono da fuori, se tu dovessi invitare le persone all'edizione di quest'anno del Carnevale, che cosa gli diresti? Lancia proprio un saluto e un invito. Allora, ti direi poche parole di venire, perché comunque ci si diverte. Sono 3-4 ore passate in spensieratezza, senza pensare assolutamente ai problemi quotidiani. Il Carnevale è nato per questo e dura per questo nella storia di Foiano, proprio perché è un periodo di tempo che ti fa rilassare dai problemi quotidiani, ti fa anzi divertire. Quindi è un momento di allegria, e allora su questa allegria, Ascanio, che ci hai trasmesso, noi ti salutiamo, ti auguriamo buon lavoro, perché insomma state finendo gli ultimi dettagli del vostro carro. Grazie Ascanio. In bocca al lupo e buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Simpatici amici, loro sono gli U2 e pensate, questo il brano era Invisible e è uscito da poco il nuovo singolo degli U2, che in pochissime ore, 36 ore, ha fruttato 1.900.000 sterline. No, stava vabbè, per affrutta... una raccolta fondi. Ma nemmeno fosse una vigna. Che poi non si vedeva perché era invisible. Perché... ma vediamo. Ma torniamo a noi. Sapete che è un rutilante mondo sì, questa questo. Questa sera abbiamo un ospite dietro l'altro. E allora non mi resta che dire buonasera a Giorgio Gervasi, presidente dei Rustici. Ciao Giorgio. Buonasera a voi, buonasera. Ciao Giorgio, buonasera. Giorgio, buonasera. Io vorrei innanzitutto ringraziarti perché so che sei un nostro fan della nostra trasmissione della prima ora e non ti sei perso una puntata, vero? Guarda, vorrei ringraziarti anch'io, ma se devo essere sincero, ti sento talmente lontano che ho capito la metà delle parole. Ah. Ora parlerà forte e chiaro il nostro Marzi, vero? Ti ho solo ringraziato perché so che sei un nostro fan della prima ora, della nostra certo, io ascolto soltanto voi. Dalla finestra, eravamo sicuri. Senti Giorgio, stasera parliamo del Carnevale di Foiano, un argomento che forse a te potrà anche non rappresentare un granché. Ah, no. Ma nella tua veste di presidente Marcello, no. Scusa un attimo, dimmi sul serio, ti sento lontanissimo, mi sforzo tanto per capire quello che proviamo. Allora, a vedere se Sara Giorgio mi senti un po' meglio rispetto a Marcello. No, io ti sentivo benissimo all'inizio quando mi hai chiamato e adesso vi sento tutti lontani. Sì, adesso come ci senti? Stiamo cercando come di risolvere come prima male. Comunque allora, di fare del nostro meglio. Sì, perfetto. Allora cercheremo di farti domande precise e mirate. Ci puoi dire titolo e tema del carro di quest'anno? Ma il titolo è semplicissimo perché è solo una parola. Il nome di una città è Roma. Sì. Quindi vedi come sono sintetico. Benissimo, però sintetica dovevo essere io. Tu dici qualcosa in più, Giorgio. Allora, Roma dice già tutto. Il nostro carro tratta e parla ovviamente di tutto ciò che è successo, che sta succedendo in questa città. Abbiamo preso lo spunto, ritornando indietro di oltre 2000 anni, parlando appunto di questa Roma, di quello che è successo dalle invasioni barbariche fino alle ultime guerre mondiali, e tutto è rimasto come era prima. Roma era e Roma è. Tutti vanno a Roma per cercare di conquistarla e tutti vengono conquistati. Questo è il tema. Però ovviamente messo in maniera carnevalesca il tutto cambia, perché una critica, anche se con il sorriso, a questa politica italiana. Posso fare un esempio esplicito: partirono in tromba tutti quelli della Lega per cercare di cambiare tutte le cose 15-20 anni fa, sono invischiati in questa Roma più degli altri, per non parlare poi di tutti quei problemi che possono nascere da tutte quelle situazioni, vuoi di trans, vuoi di droga, vuoi di festini, eccetera eccetera. Quindi Roma ti ammaia, Roma ti distrugge perché diventi uno di loro, e questo è quello che abbiamo denunciato, con la speranza che tutto ritorni alla normalità, anche se ci sono delle grosse difficoltà. Ciao, ho delle fan qui, scusate. Allora senti Giorgio, insomma, voglio dire, la riflessione che hai fatto è bella tosta, quindi ora vorrei chiederti: i Rustici sono il cantiere più vittorioso tra quelli, tra i quattro del Carnevale di Foriano, chi sì, temete di più? Sì, sì, te lo poteva dire anche uno dei tuoi coprotagonisti. Chi? Marzi? Marzi si è un attimino addormentato, ora lo sveglio. No, io ce n'è uno che lo sa meglio, che ci soffre tanto. Rimanevo in disparte perché non volevo prendere parte alla discussione. No, ma lo sa che mi fa piacere. Sì, no, ma allora te la faccio io questa domanda che doveva farti Sara. Voi dei Rustici quest'anno temete qualcuno in particolare degli altri cantieri? No, ma ormai mi conosci bene, no? Io tiro fuori il giudizio dopo che ho visto i carri, lo sai come lo sono fatto. Ora sono tutte chiacchiere perché i temi sono quelli che sono, poi dipende se sono riusciti o meno e più che altro quello che viene fuori. Delle volte sbaglio, ma spesso ci chiappo. L'anno scorso ho toppato in pieno. Purtroppo sì, mi ricordo. Purtroppo per tutte e due, perché sì. Sai benissimo che l'anno scorso ti dico, vinco io, vinci te. e ha vinto un altro. Quello che secondo me doveva arrivare l'ultimo. Ma è sempre così: tra i due litiganti, come si suol dire, il terzo gode. Ma il terzo, secondo me, al limite non era neppure quello, era quell'altro. Era il quarto in questo caso. Era proprio il quarto, sai, delle volte succede. Succede. Quindi senti, Giorgio, che aspettative avete per quest'anno? Allora, tu hai detto che di solito vuoi vedere i carri, però insomma vi sarete posti comunque degli obiettivi. Ma guarda, io non vorrei sembrarti presuntuoso, te devi sapere, poi hai fatto una premessa, che siamo quelli che si vince di più. Noi combattiamo contro noi stessi, insomma, cerchiamo di migliorare, di fare sempre qualcosa di nuovo, di diverso, perché non è che ci interessano gli altri. Poi delle volte siamo penalizzati dal tipo di giuria che viene, ma da un punto di vista del manufatto, lasciami questo termine, è ovvio che anche le russi ci avanti anni luce rispetto agli altri. Vedo che, Giorgio, la sicurezza è abbonda nel cantiere dei russi. Non fosse altro che... Devo dire la verità, te la dico, questa è la verità, ma lo sanno anche i miei concorrenti. Non fosse altro che anche il presidente del cantiere, quindi... La massima autorità. Va bene. Giorgio, noi... Un saluto magari rapidissimo alle persone che lavorano in cantiere. Questo sì, Giorgio, però in due parole, perché qui i tempi stringono. Sì, certo, guarda, io ne vengo proprio via adesso, mi avete chiamato che ero appena arrivato qua al bar e sono ancora lì intenti, perché ecco, se proprio devo sottolineare la differenza tra noi gli altri, che siamo molto pignoli, soprattutto quelli del nostro cantiere che pensano alla pittura, che pensano agli ultimi ritocchi, che guardano proprio il capello, non è che tirano, come si suol dire, dalle nostre parti a fare ciccia. Bene. Come magari qualche altro cantiere fa e tira su due balle e ci tira il colore, cioè noi siamo proprio maniaci di questa situazione, poi delle volte paga, altre no. I nostri cantieristi sono come tutti gli altri, onestamente parlando, delle persone eccezionali che lavorano tutto un anno senza prendere un soldo, stando alcune volte anche al freddo e alcune volte anche mettendo dei soldi di tasca, quindi meriterebbero tutti una coppa personale da tenere lì in camerina, perché effettivamente il nostro è un carnevale unico, nessuno credo che potrebbe andare avanti tutti questi anni in queste condizioni, solo noi, solo poi altri. E allora, Giorgio, un salutone a te ci e a tutto il cantiere dei rustici in piazza per domenica. Ma ti posso chiedere una cosa? Gli auguri del presidente di Bombolo. Ma io tanto ci stai ascoltando, io direi che per questo programma bastano quelli di Sara, che rappresenta, no, tutta la sto registrando. Allora dopo lo faccio risentire ai suoi. Che beh, no, io, ma io non li ho fatti, infatti. No. Arriverà Bombolo, arriverà. C'è un'interferenza. Rimani non sintonizzato. Sento. Prima non sentivi Giorgio. Tu, Giorgio, adesso non sento io. Abbi pazienza. In bocca al lupo, Giorgio. Ciao, buon lavoro. Giorgio. Grazie, buon lavoro a voi. E magari mettete l'antenna più lunga. Ciao. Grazie a tutti voi. Buon lavoro. Ciao, a presto. Everything we do is a promise of love. l'unico brano che dall'inizio di Piazza Alta è piaciuto a Marzi è questo, e ora ve lo annuncia lui. Veramente era In Excess. Sì. L'ho volutamente, fortemente richiesto. L'ho volutamente forte. Il titolo era The Messenger. The Messenger. Ragazzi, mi devo assentare un paio di minuti. Tempi. Ciao Enzino. Ciao, ci si vede giovedì prossimo. No, poi torno per i saluti finali. Torni. Però devo andare in bagno. Tira lo sciacquo. Vado in bagno. Mi raccomando, tienilo pulito. Allora Marzi, però scusa, io veramente mi manca un pezzo. Ma io ti ringrazio per questa domanda, perché è una domanda che segnala sensibilità nei confronti di Foiano, dei cantieri. Sentito tre presidenti. Siamo partiti dai Nottambuli, poi siamo passati agli Azzurri. Sì. Ora abbiamo appena sentito Giorgio Gervasi con per i rustici. Però ci a me ne manca uno. La ciliegina sulla torta, ma non fosse altro perché è rosso. Sono rossi i colori. Rosse sono le gote. Rosso è la maglina. Rosse sono le cuffie. Le cuffie. Che non vogliamo sapere altro. Allora, ma l'abbiamo fatto il numero di telefono, sì. Quindi siamo in attesa sì, di una risposta dall'aldilà. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao. Enzo, ci sei? È il presidenzo? Pronto, sì. Direttamente ci sono da... dei problemi no, con no, la no, linea. Direttamente dal cantiere dei... di Bombolo abbiamo il presidenzo. Buonasera a tutti. Il signor presidente. Come va, buonasera. Enzo? È finito il carro? È finito il carro, sì, il carro è finito. Sono veramente emozionato, è la prima volta che parlo in radio. Sì, si sente, hai la voce un po' rotta dalla commozione. Potrei usare congiuntivi a caso e di questo chiedo scusa. Come sempre. No, meglio il gerundio. Gerundivi. Bene, domenica c'è la prima uscita, Enzo, c'è la prima uscita. E sì. Il carro è pronto. Mi vogliamo perché dire avete presentato gli altri tre cantieri di è vero, è vero. No, ma Marzi, no, allora proprio. No, abbiamo detto che il rosso è il colore che appunto identifica Bombolo. Ora però Marzi le dovrebbe presentare lui, Marzi? No, io lo voglio far presentare a lui. Qual è il simbolo del cantiere I colori di Bombolo? Del cantiere di Bombolo sono il bianco rosso. Mm-hmm. E il simbolo è il cuore che pulsa dal 1934 nei nostri cuori. Cioè voi avete un cuore. In pratica quest'anno avete festeggiato gli 80 anni. Sì, la ringrazio per questa domanda. Mi riesce veramente difficile fare il serio come hanno fatto i miei colleghi, ma purtroppo sono le condizioni che non... certo. Abbiamo compiuto 80 anni quest'anno, abbiamo fatto una festa meravigliosa di cui hanno parlato tutti. Esattamente, d'altronde di quello dovevamo parlare. Abbiamo avuto come ospite l'amico Leonardo Pieraccioni, che tra l'altro mi ha detto di salutare carissimamente i rustici. No, non è vero, anzi ho sentito la telefonata prima con Gervasi. Poi vi chiedo se potrete organizzare anche un incontro tutti e quattro insieme, presidenti. Ci stiamo lavorando. Sì, presidente, le possiamo dare diritto di replica, però in chiusura, non sì, ora. Esatto. Niente, sono sicuro che adesso mi state per chiedere il titolo. Il titolo e il tema del carro, bravo. Non abbiamo molta fantasia, abbia pazienza, no, presidente. No, ma me lo sentivo proprio. Il titolo è il Dio Quattrino. Bene. Beh, voglio dire, ci rifacciamo a quella che è la crisi degli ultimi 700 anni che ci attanaglia, per cui l'affrontiamo però in modo un pochino, permettetemi, più alto, e ci rifacciamo una citazione di Pasolini che diceva: al Dio Trino preferisco il Dio Quattrino. E da lì siamo partiti fino ad arrivare a realizzare un carro che analizza gli aspetti di questa crisi. Ecco, senti, è intellettuale. È talmente profonda. In qualità di presidente, quindi persona avulsa dal contesto, sì. Il carro di quest'anno secondo te com'è venuto, Enzo? Io credo che meglio sia impossibile realizzare un carro. E ne avrete prova domenica mattina alle 10 all'apertura degli uscioni, ai quali invito tutti coloro che ci stanno ascoltando. Ma senti, al carro, insieme al carro ci sarà anche una mascherata. Mi sento male, però mi sembra di aver capito che parli della mascherata. Beh sì, sarà una mascherata importante. Siamo i detentori del titolo come miglior mascherata. Abbiamo fatto un exploit clamoroso. Approfitto per ringraziare tutte le ragazze e i ragazzi di Bombolo che lavorano per costruire sia il carro che per fare la mascherata che per fare gli eventi. E chiudo ricordandovi che sabato, tra l'altro, inauguriamo una mostra straordinaria, sia fotografica che dei costumi, che dal 1984 ad oggi abbiamo presentato nelle manifestazioni carnevalesche negli ex locali della Banca Popolare di Cortona. Bene, allora io però direi a questo punto un altro domandone è: chi è il cantiere che il Bombolo teme di più in assoluto? Ma Bombolo può temere solo se stesso, perché per problemi proprio psicologici, intendo. A no, questo proposito ti potrei segnalare il mio analista. Sì, ho sentito, infatti. A tutto no, il cantiere. Come dicono i giocatori di Serie A, rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno, vero? Bene, direi... Vogliamo dare un breve diritto di replica o ci salutiamo? No, ci salutiamo ci così, sarà, io vi ringrazio. Ci sarà il momento anche per il confronto diretto, cara Sara. Perfetto. Siamo io appena entrati nel clima. Attendo con ansia quel momento, perché penso che sarà... Eccomi qua. Oh, che è tornato? No, questa pantomima vergognosa, il momento testimonianza. Sì, dunque, io direi, ragazzi, di dare appuntamento a tutti in piazza per domenica prossima. Esatto. Con il Carnevale di Foiano. E sì, anche a giovedì prossimo invece con noi. Fondamentale. Prima, però, direi, domenica. Non, sì, non avrebbe domenica senso. E poi giovedì. Okay. Come sempre, no? Anzi, da domani i nostri ascoltatori, brava, ci possono risentire sulla nostra pagina Facebook e troveranno il podcast di questa 11ª puntata di Piazza Alta. Con il segnale di tipico dal 1976 Radio F. Ciao a tutti. Ciao. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marsi, Enzino e alla parte tecnica Simone. One.